Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 22. La cattedrale del mare. La stanza era buia, tranne che per la luce del monitor sulla scrivania. Acqua di Cane aveva una mano sul mouse, con l'altra era intento a frugarsi minuziosamente in un orecchio, cercando di capire come aggiornare correttamente le pagine del sito dei devoti. Alle sue spalle, Suor Regina premeva un dito sul monitor indicando la foto di un fiore, una rosa bianca su sfondo azzurro. «Voglio questa, in alto a destra, subito dopo il titolo». Acqua di Cane sbuffò, cercando di posizionare l'immagine nel modo corretto. «Vorrei che avessi scelto qualcun altro per questo lavoro. L'inizio è sempre la parte più complicata. Dopo sarà tutto più semplice. Vedrai, adorerai il tuo compito». La foto della collina faceva da sfondo alla homepage del sito. «Voglio anche una sezione in cui mostrare gli avanzamenti dei lavori della cattedrale». «Basterà mettere una webcam puntata sul cantiere della collina». «Hai visto? Sei perfetto per questo lavoro». Acqua di Cane annuì e si concentrò sul suo compito. Era ormai notte, dovevano essere almeno 5 ore che sudava su quel maledetto computer. Avevano preso alloggio nell'antica costruzione che ospitava una scuola elementare gestita da suore. Suor Regina vi aveva fatto irruzione come un tornado, portando con sé una marea di fedeli in tunica bianca e proclamando che quella sarebbe stata la residenza dei devoti fino alla costruzione della cattedrale del mare. Aveva affidato ad Acqua di Cane l'incarico di essere il riferimento per tutti i contatti che avrebbero raccolto via internet. Era sua intenzione raccogliere più testimonianze possibile della grandezza del senza nome e andare in pellegrinaggio a Roma con la sua comunità. La porta si aprì e Anna varcò la soglia reggendo fra le braccia scatole di pizza e un sacchetto pieno di bottiglie di aranciata e Coca-Cola. Accese la luce e, visti Acqua di Cane e la suora, esclamò: «Sembra di essere tornati ai tempi della Resi. Ci sono tutti. Ho appena visto il pescatore e il nero giù in cortile». Posò rapidamente le vivande sulla scrivania. «C'è anche il Marra. È andato a casa di Anna e fra un po' ci raggiungeranno». «Era ora. Da quando è iniziata questa storia ci siamo persi di vista», disse Acqua di Cane addentando per primo un trancio fumante di pizza. Suor Regina versò la coca nel suo bicchiere, badando a produrre più bollicine possibili. Adorava il modo in cui le facevano sollettico al naso. «Ma di cosa parlate? Chi è la Resi? Quale storia?» «Vedi, la Resi è il posto dove ci si riuniva, praticamente casa nostra. Io, Anna e gli altri eravamo sempre insieme prima». Fece una pausa. «Prima che il mondo cambiasse». Tacque ancora prima di continuare. «A dire il vero, con noi c'era anche lui». Guardò Anna. «Lui chi?» chiese Suor Regina. «Il senza nome», disse Anna in un sospiro. «Oh sì, certo, lui è in ogni luogo. Il suo spirito aleggia ovunque, sia lodato il suo non nome». E per celebrare il suo non nome trangugiò una lunga sorsata di bollicine. Acqua di Cane occhieggiò Anna. Lei si morse un labbro, indecisa. Suor Regina era indaffarata a sbocconcellare la pizza. Anna si versò da bere. Aveva provato una fitta di gelosia. Non voleva condividere il suo rapporto speciale con il Dio. Non ancora. Confusa, sviò il discorso su argomenti meno sensibili. Indicando la foto della collina, chiese: «È per la cattedrale?» Suor Regina annuì con vigore: «Sarà stupenda, sarà la nuova San Pietro, sarà un'opera magnifica, sarà come l'ho vista davanti ai miei occhi mentre eravamo sulla collina, la cattedrale già finita, lì, davanti a me. Lo sguardo le divenne sognante per un istante, poi batté le mani ed esclamò: «E adesso basta ciarlare! Abbiamo i geometri e gli ingegneri che seguiranno la costruzione della cattedrale? L'architetto? Ah sì, dobbiamo preparare l'assemblea per decidere il disegno definitivo e dare ai volontari le prime istruzioni. Anna, inizia a preparare il salone. Tu, acqua di cane, continua a lavorare al sito. Lo voglio funzionante il prima possibile. E non dimenticarti quella cosa, come si chiama? La Babcam?»